passa, passa, passerà l'inverno. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, e soprattutto buona liberazione. Buona liberazione in particolare va a coloro che ne sono privati della libertà, in senso molto molto visivo, molto molto forte, ossia a coloro che ci ascoltano dalle carceri e dovunque arrivi questa voce, ma anche dove non arriva. Oggi è la festa della liberazione, quindi non poteva mancare una trasmissione contro il carcere, perché il carcere è il massimo della privazione della libertà, che chiaramente manca un po' a tutti, ma in particolare soprattutto manca a chi appunto viene tolta alla radice, quindi viene messo nell'impossibilità di muoversi perché è rinchiuso o rinchiusa in un carcere. E allora gli auguri di liberazione non potevamo farveli mancare questo giorno. Liberazione che è importante per una serie di, cioè questo giorno è importante se lo dedicassimo, ma non ci pare che così si stia facendo. Si fanno commemorazioni, feste, comizi, tutto giusto, le feste soprattutto, i comizi meno, anzi i comizi se ne potrebbe fare benissimo a meno. E a fianco alle feste però sarebbe opportuno riflettere anche a che tipo di liberazione, se c'è stata o non c'è stata questa liberazione, se c'è stata parzialmente, quella, qual è la liberazione che manca, oltre quella delle galere, ma manca anche a livello delle aspettative di coloro che hanno lottato per la liberazione. Oggi si festeggia il 25 aprile, quando, come dice la canzone, scusate ma il raffreddore, poiché la primavera tardava, ha tardato parecchio ed è, in sostituzione della primavera è venuto un brutto tempo, a qualcuno come a me ha prodotto una bronchite e raffreddore, quindi la voce è un po' così in cantina. Dicevamo che la liberazione, appunto, nelle aspettative di coloro che hanno lottato e che oggi si salutano, i partigiani, quelli che il famoso 25 aprile sono scesi dalle montagne a colpi di fucile, come dice la canzone, per liberare l'Italia dai nazisti, dai tedeschi invasori e dal fascismo, 20 anni di dittatura fascista. Bene, però probabilmente le aspettative di coloro che hanno imbracciato quel fucile in quel periodo non sono state rispettate, anzi, ed è un punto importante che affronteremo in questa trasmissione, dal punto di vista del carcere, tutto quello che ruota intorno al carcere, il sistema penitenziario, il codice penale, gli articoli del codice penale, quelli per mezzo dei quali poi le persone che ci ascoltano al carcere vanno a finire in carcere, la lunghezza delle pene, eccetera. Quanto di questo bagaglio il sistema penitenziario, punitivo, penale, risente ancora dell'influenza fascista o quanto è stato rinnovato? Questa è la domanda che affronteremo tra poco, ed è importante per capire quanta liberazione c'è stata in quel famoso 25 aprile, o quanta non ce n'è stata, quanta ne manca, e vedendolo dal punto di vista del carcere. Ovviamente si può vedere da tanti punti di vista, basta ricordare, ma lo sapete tutti, ormai sta sui libri di storia, anche se si cerca continuamente di occultare, che lo Stato fascista è stato traghettato pressoché indenne totalmente nello Stato democristiano, quello dopo il 48, lo Stato è stato ripreso pari pari come era durante il periodo fascista, la quasi totalità dei questori sono stati riciclati nella cosiddetta Repubblica Democratica, i prefetti altrettanto, che i prefetti era una struttura che doveva essere addirittura abolita, sono stati invece tutti ripresi dal periodo fascista e traghettati nella Repubblica Democratica, i questori altrettanto, i magistrati uguale, e insomma, quindi le strutture essenziali dello Stato, che sono queste, i dirigenti delle carceri e così via, sono stati traghettati, gli è stato solo cambiato la divisa, che so, la sigla fuori la porta, però in realtà sono stati resti, perché questo, ed è un problema che vedremo attentamente. Prima però di questo volevamo leggere una lettera, anzi un documento vero e proprio, che ci è giunto dal carcere femminile di Rebibbia, le cui ragazze, compagne che sono lì, salutiamo con calore e auguriamo ovviamente a loro, come a tutte le altre e a tutti gli altri, buona libertà. Il viene dal settore, dal reparto alta sicurezza del carcere femminile di Rebibbia. Un attimo di musica e poi ve la facciamo ascoltare. E allora, 15-13 minuti, allora, diciamo, un gruppo di ragazze, di compagne del reparto alta sicurezza del carcere femminile di Rebibbia, qui a Roma, ci hanno mandato questa lettera a proposito dell'amnistia, perché, come sapete, oggi i giornali, questa mattina, ma anche da ieri, erano pieni, le agenzie ancora di più, le agenzie di stampa, sul fatto che quest'oggi i radicali e qualcun altro hanno fatto una marcia per chiedere l'amnistia, c'è stato un appello di Pannella a Napolitano e così via. E allora loro vogliono giustamente entrare, dire la loro, e la parola sarebbe opportuno che coloro che stanno dietro le sbarre la riprendessero con forza, perché la liberazione può venire soltanto per merito di chi la vuole, la cerca e la pretende. Allora, iniziano amnistia, punto interrogativo. Ma dov'è la volontà politica di affrontare il drammatico problema delle carceri? Si domandano le cose. Siamo detenute della sezione di alta sicurezza del carcere femminile di Rebibbia e intendiamo aderire alla giornata di mobilitazione in favore dell'amnistia, dicendo subito che lo facciamo innanzitutto per solidarietà con le decine di migliaia di detenuti che sperano e vedono in questo provvedimento la possibilità di mettere fine alla propria detenzione, che con l'aumento esponenziale del sovraffollamento delle carceri è diventata insostenibile. La carcerazione insopportabile, una vera e propria tortura nella maggioranza degli istituti di pena. Vogliamo approfittare di questa occasione per riflettere su delle questioni che vengono messe in primo piano a momenti alterni nella discussione dei politici o nella stampa e nella televisione, come quella del sovraffollamento, che cancella anche il più minimo tasso di umanità nelle carceri e che fino a che punto un'eventuale amnistia possa risolvere questi problemi. Visto che proprio in questo giorno, ossia il 25 aprile, si celebra la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo, vorremmo cominciare a riflettere, a partire dalla Costituzione, che affronta la questione del carcere in un articolo, l'articolo 27, scritto da persone, molte delle quali in carcere c'erano state, avendolo subito, il carcere, sulla propria pelle, sapevano cosa volesse dire la reclusione. Probabilmente per questo hanno voluto scrivere a chiare lettere che, e qui c'è il virgolettato dell'articolo 27, la pena non deve essere mai contraria al senso di umanità e che, altre virgolette, la pena deve tendere alla rieducazione, chiuse virgolette. E non hanno voluto invece attribuire alla pena solo uno scopo retributivo, quello che risponde al male per male, secondo la logica dell'occhio per occhio. Ma quei principi, quelli della Costituzione, non sono mai stati applicati, anzi, specialmente negli ultimi anni, si è affermato un principio ben differente che confonde la certezza della pena con la certezza del carcere. Sempre e per qualsiasi ragione, il carcere è così diventata una discarica sociale dove vengono rinchiuse e permangono solo le persone più deboli ed emarginate, visto che la certezza della punizione per i ricchi e per i potenti non è poi così necessaria. Tutto questo quando sono proprio le leggi fatte da quando esiste la Repubblica, oltre che il principio costituzionale, che prevedono quindi anche le leggi oltre la Costituzione prevedono che la pena possa essere eseguita in forme alternative al carcere, visto che si tratta sempre di pena che viene scontata fino all'ultimo giorno. Ed è sempre la legge che prevede che la custodia in carcere per persone in attesa di giudizio, cioè quelle non ancora condannate, che devono quindi godere della presunzione di innocenza, sia applicata solo in casi eccezionali nei quali sussistano gravi rischi per la società. Allora, continuano, perché queste leggi non vengono pienamente applicate, anzi perché sono state cancellate e snaturate da tutta una serie di misure straordinarie? È il punto interrogativo. La legge ex Cirielli e tutte le misure sempre più restrittive dall'articolo 4 bis hanno fatto sì che sia la custodia cautelare che la pena della reclusione siano le uniche opzioni adottate per qualsiasi reato. Infatti circa la metà dei detenuti che attualmente sovraffollano le carceri italiane sono in attesa di giudizio e più del 60% dei detenuti ha un residuo pena inferiore a 3 anni, che rappresenta il limite sotto il quale è possibile usufruire della maggior parte delle misure alternative. Prendiamo ad esempio la detenzione domiciliare. Esiste un articolo del codice, l'articolo 47 ter dell'ordinamento penitenziario, che prevede la possibilità di, e qui c'è virgolette riportato l'articolo, di espiare nella propria abitazione una pena non superiore a 4 anni quando si tratti per esempio di donna incinta o madre di prole di età inferiore di 10 anni con lei convivente. È un articolo di legge che tutela i bambini in tenera età che hanno i genitori detenuti, li tutela sia dal trauma di dover entrare in carcere con le proprie madri, sia dal dover subire tutti i traumi dell'abbandono e o delle visite nei luoghi di reclusione in quei primi anni di vita che, come risaputo, sono quelli in cui si struttura fisicamente e psicologicamente, ma anche affettivamente, la persona e che danno un'impronta che si svilupperà poi nel corso della vita. Ma sia l'articolo 4 bis, che esclude da qualsiasi beneficio i reati cosiddetti gravi, sia le misure della ex Cirielli, quella della recidiva, per quanto riguarda la recidiva, e chi sta in carcere, come si sa, è recidivo, discriminano ed escludono automaticamente, in questo caso, i bambini, visto che è per tutelare loro che era stata prevista la detenzione domiciliare del genitore, e che hanno appunto i genitori incolpati di tali reati. Questo l'abbiamo detto mille volte, la legge, che ve ne sono ben due di leggi fatte per permettere alle madri con bambini al di sotto dei 6 anni di poter trascorrere in luogo diverso dal carcere, quindi in detenzione domiciliare, gli anni fino a che il bambino o la bambina non ha compiuto i 6 anni, no? Queste due ne hanno fatte di leggi. Una intorno al 2001-2002, la legge Finocchiara, e un'altra l'altro anno. Tutte queste leggi però continuano a non uscire perché escludono da questi benefici, da questa possibilità di godere la detenzione domiciliare, da queste madri, la recidiva. Siccome chi sta in carcere, come giustamente dicono qui le ragazze e le compagne del reparto di alta sicurezza, sono recidive, è chiaro che non vengono applicate. Cioè, la recidiva è un po' questa ex Cirielli è una legge di quelle veramente, come dire, medievali, è una legge medievale nel senso brutto del termine, cioè è una legge che senza entrare nella storia, poi casomai ci torneremo, cioè è una legge che abolisce tutte le altre leggi, che è una cosa non esiste, insomma, cioè una volta esisteva il razzismo, diceva. Alcune teorie razziste dicevano, hanno detto e hanno anche praticato purtroppo, per esempio l'olocausto viene da questo, che alcune particolari etnie vengono private dei propri diritti. La Cirielli è una legge razzista, è una legge fascista, quindi altro che liberazione, è una legge barbara, medievale, una legge che non c'entra niente, solo dei criminali mafiosi come quelli che l'hanno firmata potevano appunto farla, ma continuiamo. Quindi la legge Cirielli impedisce e quindi mantiene queste madri con bambini in carcere. Ma questo non bastava. Nel corso di circa un anno sono stati approvati ben due decreti leggi sulla detenzione domiciliare, tutte e due più restrittivi della legge sussistente, visto che prevedono la possibilità di espiare l'ultimo anno e poi l'ultimo anno e mezzo di carcere in detenzione domiciliare. Inutile dire che, essendo stati esclusi i recidivi, i reati inclusi nel 4 bis ed essendo a discrezione del magistrato di sorveglianza la concessione di tale misura, sono stati pochissimi i casi che hanno usufruito, una goccia nel mare, nonostante un po' sfacciatamente sia stato definito come decreto svuota carceri. Sono usciti, facciamo una parentesi, sono usciti qualche giorno fa i numeri di quelli che hanno goduto del provvedimento del decreto svuota carceri, sono 376 persone. Svuotato il 376 persone sono uscite dal carcere a fronte di 68.000. Fate voi la percentuale, a me mi viene da ridere, non sono in grado di farla perché le cose ridicole, ovviamente si rifiuta anche la calcolatrice di fare il calcolo. Questi sono questi cialtroni, e pensate che dei giornalisti che dovrebbero smettere di fare qualunque mestiere, probabilmente non sono in grado manco di tornare all'agricoltura, hanno continuato a chiamarlo decreto svuota carceri. Questo il paese è questo. Purtroppo noi compriamo ancora i giornali, dovremmo smettere di comprarli, dovremmo smettere di vedere la televisione, però invece la pigrizia ci impedisce. Continuiamo comunque e terminiamo questo documento delle ragazze, delle compagne dell'alta sicurezza del carcere femminile di Bibbia. Dicono: il problema non riguarda solo la questione della detenzione domiciliare, ma tutte le forme di espiazione della pena alternativa al carcere, che nella maggior parte dei tribunali di sorveglianza, parentesi, noi possiamo vederlo pienamente nella sorveglianza di Roma, vengono prese sempre meno in considerazione le misure alternative. Non c'è bisogno di essere detenute per sapere che se venissero accettate le richieste, se quelle leggi venissero chiaramente applicate, diminuirebbe di molto la popolazione carceraria nell'immediato ma anche nel futuro, visto il ruolo positivo che svolgono anche nel diminuire la reiterazione dei reati le misure alternative. C'è un calcolo mai scientifico, mai comprovato negli anni: coloro che escono dal carcere in misura alternativa tornano a reiterare il reato, a ripetere il reato per cui erano entrati in carcere, la quinta parte di quelli che invece escono a fine pena dal carcere direttamente. In alcuni casi, concludono qui i documenti politici, scoprono che le galere sovraffollate negano la dignità delle persone e vanno contro qualunque senso di umanità della pena. Parallelamente però sostengono i politici anche che non ci sono più fondi ministeriali a causa della crisi economica, e per questa ragione vengono effettuati tagli drastici che deteriorano ulteriormente le condizioni di vita dei reclusi, riducendo al minimo le mercedi, cioè la paga per chi lavora in carcere, che dovrebbero permettere ai detenuti che lavorano per sopravvivere, e arrivando persino ad abolire qualsiasi completamento del lavoro remunerato in carcere. Abbiamo visto l'altra volta, abbiamo denunciato, le mercedi medie sono 30-40 euro al mese. Cioè, ridicolo, col fatto che devi pure pagare il mantenimento. Vabbè, questo quando il lavoro dovrebbe essere un elemento fondamentale della rieducazione del condannato. Vabbè. L'ordinamento penitenziario sancisce che dovrebbe essere obbligatorio. Dal momento che attraverso il lavoro una persona risocializza con gli altri, guadagna lecitamente, apprende un mestiere, però noi pensiamo che il lavoro casomai fuori, non dentro le mura, comunque è un discorso da continuare. Come non riflettere sul fatto che allo stesso tempo di fondi ce ne sono invece trovati, usando anche quelli della cassa delle ammende, fondi dei quali confluiscono le quote mensili prelevate ai condannati, per sostenere il progetto di costruzione di nuovi carceri. Questo è proprio un crimine contro l'umanità. Hanno rubato i soldi ai detenuti, questo è stato Berlusconi, no? Rubò i soldi ai detenuti, proprio i detenuti, la cassa ammende sono soldi ai detenuti, per fare il progetto di nuove carceri. Vabbè, tra ladri. Concludono questo documento: queste sono solo alcune riflessioni che ci sembra dimostrino abbastanza chiaramente che quella che manca è una volontà reale politica di affrontare costruttivamente sia il problema del sovraffollamento delle carceri che quello della pena. Volontà politica che manca ovviamente alle classi politiche che governano questo paese. C'è chi sostiene che l'istituzione del carcere e le condizioni di vita dei detenuti sono dei parametri per misurare il livello di civiltà di un paese. Se ci troviamo nelle condizioni attuali non è causa di una malattia senza rimedio o di un'imprevedibile calamità naturale, e allora cosa manca per cambiare la situazione? Questo è il documento scritto dalle compagne, ragazze, detenute che si trovano nel reparto alta sicurezza del carcere femminile di Re Bibbia. kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that should give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part. Whenever he needs it, and when his lonesome and feeling love stopped, I'll be there to feed it. I'm loving him a little bit for each day. Turns me right on when I hear him say, hey baby, let's get away, let's go somewhere. Oh, baby, can we? Well, allora 15:28 arrivano intanto delle notizie ancora imprecise che cercheremo di capire meglio nel corso della giornata, che a Cagliari i compagni durante una manifestazione in merito al 25 aprile sono stati caricati dalla polizia. La vicenda pare che sia questa: alcuni squallidi personaggi istituzionali e anche non di tipo fascista volevano utilizzare questa giornata per commemorare le cosiddette i morti delle foibe, quindi utilizzando questa giornata per fare una processione verso questa labide che ricorda i morti delle foibe. Siccome erano tutti personaggi lugubri fascisti, i compagni dell'area cagliaritana hanno cercato di impedire in un giorno come il 25 aprile questa raduno di accozzaglie fasciste. La polizia ovviamente ha caricato i compagni, come sempre succede, a difesa dei fascisti, e pare che ci sono stati degli scontri, non sappiamo ancora, dei fermi, sicuramente dei feriti, forse dei fermi, non sappiamo degli arresti, se ci siano anche degli arresti, cercheremo di saperne qualcosa in giornata in seguito. Just what he said, he said, darling, oh. E allora 15:31. Dunque, dicevamo, oggi è il giorno della liberazione, si commemora il passaggio, scusate il lapsus freudiano, ma c'è tutto dentro questo concetto, cioè si festeggia la fine del fascismo, dell'occupazione nazista, ma soprattutto di un ventennio di regime fascista che ha tenuto sotto il tallone di ferro le libertà, la volontà di partecipazione, i diritti, l'emancipazione di questa popolazione italiana, e quindi la fine del fascismo, l'inizio di un'epoca di democrazia, di repubblica, quindi la fine anche della monarchia, di repubblica, di democrazia, di partecipazione delle masse e così via. È stato così? Vediamolo. Allora, come ho detto, questa trasmissione si occupa di carcere, contro il carcere, quindi vediamo dal punto di vista del carcere. Dicevamo, lo Stato Repubblicano Democratico, così chiamato, formato dopo la Costituzione che è stata scritta, Costituzione che è stata prodotta da un insieme di forze abbastanza contraddittorie tra di loro, è un compromesso tra forze diverse, però qualcosa c'è pure il contrario, però insomma qualcosa si trova. Però, tuttavia, primo elemento, allora quando si parla Costituzione, bisogna capire che la Costituzione non opera, non sono articoli della Costituzione che non operano direttamente come fosse una legge. Costituzione si chiama legge fondamentale dello Stato, ma che non è una legge operativa, operante immediatamente, nessuno viene condannato perché ha violato un articolo della Costituzione. La Costituzione è un po' il quadro di riferimento all'interno del quale dovrebbero essere contenute tutte le leggi concrete, materiali, effettive, quelle che operano per regolare i comportamenti delle persone, dei cittadini di questo paese. Perfetto. Allora, la legge che invece opera controlla, sanziona oppure permette il comportamento delle persone è il codice penale. Il codice civile è il codice penale prevalentemente, però il codice penale che dice quello che puoi fare e quello che non puoi fare. Il codice penale dice che se fai quelle cose che non puoi fare hai una sanzione, la sanzione è tanto più grave quanto, secondo appunto gli estensori del codice penale, quel comportamento che tu metti in atto viola la convivenza civile, quindi rovina, diciamo, fa del male alla società, e quindi ecco, infatti le pene, se voi vedete il codice penale, vanno da alcuni mesi fino all'ergastolo, quindi un ventaglio molto ampio, secondo quello che l'estensore del codice definisce che tu fai del male alla società e quindi ti punisce. Allora, primo punto, chi ha stabilito questi principi? Chi scrive il codice penale? Oggi, 25 aprile, sono passati quanto? 60-70 anni, oltre 65 anni dalla fine del fascismo, il codice penale italiano, quello con il quale veniamo sanzionati, tutte le persone che ci ascoltano al carcere sono state condannate in base a un articolo di un codice penale che incalce, in fondo al quale c'è ancora la firma di un certo Benito Mussolini. Il codice penale italiano, gli articoli di quel codice per il quale siamo tutti condannati o sanzionati, eccetera, è ancora il codice penale fascista, scritto nel 1931. Emanuele Rocco, un giurista fascista, diciamo fiore all'occhiello del fascismo, che aveva impostato un nuovo concetto di rapporto tra cittadino e Stato, individuando il bene massimo come il bene della nazione, non quello del singolo, della persona, individuando quindi il massimo di punizione da fare colui che mette in discussione la autorità dello Stato. Certo, alcune leggi sono cambiate nel frattempo, ma l'impianto complessivo del codice penale è ancora quello fascista. Sono passati 65 anni di Repubblica Democratica, nessuno ha messo mano, ossia hanno messo mano tante volte a fare, vi sono circa una decina, due di queste, una decina diciamo di riscritture del codice penale, due sono arrivate fino al Parlamento ma sono state fermate lì, sono ancora disegni di legge. Abbiamo ancora il codice penale fascista, che vuol dire non è solo un fatto che dice ci dà fastidio avere un codice scritto da un giurista fascista approvato da Mussolini, Ma anche se quello ci dà molto fastidio, se permettete, a me dà fastidio avere un codice che ancora incalcia la firma in ogni pagina, la firma di Benito Mussolini. Non so, qualcuno forse non dà fastidio, sicuramente a quelli che poi fanno i comizi, che questa mattina hanno fatto i comizi, e anche all'altare della patria, in vari in giro, a loro non dà fastidio, a noi dà fastidio. Ma anche a parte questo, c'è proprio l'impianto culturale che sottende il codice penale fascista, ed è rimasto tale. Per esempio i reati associativi. Molti compagni tra qualche mese andrà definitivo un lungo processo, quello che appunto vide le contestazioni, quel grosso movimento, 300.000, 400.000 persone che contestavano il G8 a Genova nel 2001, nel luglio del 2001, con aggressione della polizia, violenza e così via, con un morto tra i compagni, no? Carlo Giuliani. Ebbene, poi questi processi sono stati lunghi, ovviamente i poliziotti sono stati pressoché tutti assolti oppure sono andati in prescrizione i reati, invece una ventina di compagni hanno ancora sono stati condannati a pene diverse, nemmeno tanto brevi, con sostanzialmente un articolo del codice, quello che recita devastazione e saccheggio, cioè un reato associativo, per cui se tu fai anche, dai un calcio a una vetrina o rovesci un cassonetto, che di per sé è poca cosa se lo fai normalmente, però all'interno di una manifestazione hanno il legislatore del codice penale fascista aveva individuato questa cosa: se tu fai una piccola cosa, appunto dai un calcio a un cassonetto e niente, no? Oppure rompi il vetro di una macchina, insomma, piccole cose, no? Di una vetrina eccetera, però questo sta all'interno di una manifestazione all'interno del quale ci sono altri comportamenti di questo tipo, tutti questi comportamenti vengono assemblati in un comportamento associativo, come se, e poi non è vero che loro, il legislatore pensa che ci si sia messi d'accordo per fare per devastare un ambito, un settore di una città, e quindi scatta il reato associativo, per cui non ti prendi soltanto danneggiamenti, cioè qualche mese, ma sono arrivate pene oltre 10 anni. Queste pene andranno definitive perché passeranno sotto il vaglio della Cassazione entro luglio, e speriamo che tutti ci auguriamo e speriamo che la Cassazione li cancelli, li cassi appunto. Però se ciò non avverrà, alcuni compagni varcheranno le soglie del carcere per un reato che è completamente pensato e studiato dal regime fascista per colpire gli antifascisti, perché fu così come il reato di associazione sovversiva, uguale, no? Tu puoi non far niente, ma ti incontri con delle persone che hanno che parlano, discutono, scrivono documenti in cui dicono di voler sovvertire il regime attuale, il governo attuale, il sistema economico attuale. Bene, anche se non fai nulla, di nessun comportamento strano, questo fatto di discutere insieme il voler cambiare la realtà diventa un reato. Questa cosa è chiara che l'ha prodotta il fascismo, perché doveva colpire gli antifascisti che all'inizio, fino all'inizio della guerra, in realtà non facevano azioni contro il fascismo. L'attività partigiana contro il fascismo è iniziata quando è iniziata durante la guerra. Prima c'era solo una propaganda antifascista, cioè si scrivono volantini, giornali clandestini che circolavano tra la gente. Non c'era nessuna azione, non c'è stata pochissime azioni di carattere robusto, insomma, no, contro il fascismo. Allora, per colpire gli antifascisti il fascismo ha coniato questi due reati: devastazione, saccheggio i reati associativi, no? Che non trovano cittadinanza in quasi nessun ordinamento giudiziario. Quindi abbiamo proprio una struttura punitiva tipica del fascismo. Questo è un dato. L'altro elemento, quindi non c'è stata liberazione da questo punto di vista. L'altro elemento, in Italia esiste che non esisteva durante il codice Zanardelli, quello precedente al regime fascista, quello che era in vigore dall'Unità d'Italia dall'861, è rimasto in vigore fino appunto all'avvento del fascismo. Il codice Zanardelli non era una cosa meravigliosa, però era basato su un concetto, sul diritto classico. Tu fai un reato, violi la legge, secondo la gravità di quel reato fatto, io ti punisco, un concetto retributivo. Il codice fascista, che ci pensano 7-8 anni, nel 30 cominciano a elaborarlo, nel 31 viene firmato. Comunque si chiama il codice penale Rocco del 31, introduce un concetto, la pericolosità sociale, che non era presente nel codice precedente, nel codice Zanardelli, non è presente in nessun codice, in nessun ordinamento penitenziario, se non in quelli dei regimi proprio fascisti, autoritari, eccetera. Che cos'è la pericolosità sociale? La pericolosità sociale è un termine che prende corpo proprio nei paesi nel periodo fascista, un po' nell'Europa fascista, Francia, Spagna, ma anche la Francia nel periodo di Vichy prende, assume qualche, no, come dice, assorbe le dinamiche quando era occupata dai collaborazionisti filonazisti, ma anche nella Spagna franchista, nella Portogallo di Salazar. Poi però questi paesi, Spagna, Portogallo, quando si sono liberati dal fascismo, hanno buttato via questi retaggi, ovviamente. No, in Italia non l'hanno buttato. La pericolosità sociale è una questione di carattere veramente barbaro, molto. Che cosa concepisce? Dice che una persona non viene punita soltanto per quello che fa. Questo è il concetto classico. Loro rivedono il concetto classico e si rifanno un po' alla scuola positivista, quella che dice: ma noi, cioè, tipo un po' lombrosiana, ci sono degli elementi lombrosiani che loro riprendono, però non sul carattere fisiometrico, cioè di come è fatto, se il cranio grosso o piccolo, ma del carattere sociale. Cioè, la pericolosità sociale cerca di individuare prevedere che cosa farà un soggetto sociale in futuro, non che cosa ha fatto gli interessa poco, che cosa può fare, ovviamente in base a che cosa ha fatto. Gli elementi che considera la pericolosità sociale sono appunto che tipo di vita fai, che persone frequenti, che ruolo sociale hai nella società, se lavori o non lavori, che tipo di se vivi in famiglia o vivi fuori. Cioè, una serie di valutazioni di carattere poliziesco, prese dalla polizia, che permettono di dare un quadro, una sorta di pagella a ciascuno di noi. Queste cose poi contano nel momento in cui tu vai sotto le grinfie perché fai un reato. Quando tu fai un qualunque reato, in questo paese non è vero che siamo trattati tutti uguali. Se per esempio tutti rubiamo una mela, non è vero che veniamo trattati come in maniera tutto uguale, perché questo concetto della pericolosità sociale, poi della pericolosità sociale, sovrintende tutti i tipi di comportamenti. Allora, se ha rubato una mela uno che c'ha una cartella in cui c'è scritto che frequenta luoghi pregiudicati, ha una vita sregolata, non lavora, frequenta ambienti loschi, ha una vita familiare anch'essa sregolata, addirittura è scappato dalla famiglia e cose del genere, la condanna è maggiore. Non solo, ma addirittura, attenzione, questa è una cosa abnorme, altro che Costituzione. Qui si fa ridere quando il Presidente della Repubblica Italiana sventola la Costituzione. O non l'ha letta la Costituzione, o non ha letto il Codice Penale, o non conosce che cosa avviene in questo paese. Delle tre, io immagino tutte e tre, però è gravissimo questo fatto che dica delle baggianate che fanno accapponare la pelle. Non è assolutamente pensabile questa cosa. Quando eppure avviene in questo paese, voi pensate che quando uno ha scontato la pena, mettiamo, fai un reato, cioè 2 anni, 3 anni, 4 anni, 1 anno, finita la pena, a parte le misure alternative, quello lo vediamo dopo, mettiamo che fai tutta la pena come sia e esci, hai finito la pena, uno dice sei libero, vai a casa, ciao. Mica è vero, non è vero. Se tu sei bollato come pericoloso socialmente, scattano le misure di sicurezza. Quindi la pericolosità sociale non attiene tanto alla condanna, ma alla misura di sicurezza. La misura di sicurezza può accompagnare, precedere o seguire la condanna vera e propria del codice penale. Attenzione, perché è una cosa di una raffinatezza criminale che soltanto degli elementi criminali, appunto quelle fasciste, potevano mettere in campo. Cioè, tu, se appunto, mettiamo che fai una rapina per il quale è previsto 4 anni di 4 anni, tu fai 4 anni, esci e siccome hai questa pagella in cui frequenti ambienti malfamati, frequenti pregiudicati, hai una vita sregolata e bla bla bla, quindi sei considerato pericoloso socialmente, non vai libero. Ti si manda in delle case, ti si applica una misura di sicurezza. Hai finito la pena, hai scontato la pena, dovresti stare in pace. Invece ti si applica una misura di sicurezza. Misura di sicurezza che è quelli normali, no? Le firme, l'obbligo di non allontanarti dal comune dove risiedi, oppure rientrare a una certa ora la sera, le varie misure di sicurezza che sono più o meno variegate secondo appunto la pericolosità sociale, il grado di pericolosità sociale. Questa cosa è ancora più grave perché sul terreno del controllo psichiatrico, i famosi manicomi criminali di cui stiamo parlando molto in questa trasmissione ormai, e ne continuiamo a parlare perché è una delle cose più aberranti, veramente siamo in pieno nazismo, non fascismo, in nazismo, e in Italia si mantengono ancora dei lager dove le persone vengono torturate nel silenzio tombale di questa popolazione abbastanza un po' rimbambita e che appunto va casomai ai comizi, però non capisce che in Italia con la Costituzione in mano si tortura la gente. Ebbene, con la pericolosità, sempre il concetto di pericolosità sociale, le persone ritenute che hanno uno scatto di ira, quindi che vengono portate in un manicomio criminale, lì un medico o uno psichiatra dice che questa persona dà deliri di incandescenza, insomma, se ha dei problemi di equilibri psichici, disturbata mentalmente, quindi pericoloso socialmente, questa persona entra in questi luoghi e non ne esce più, i famosi ergastoli bianchi. Quindi il concetto di pericolosità sociale è un concetto veramente abnorme che azzera completamente la Costituzione, ma azzera anche tutto quello che è lo Stato di diritto, è una cosa spaventosa. Tuttavia è rimasto, non c'è stato un solo, considerate che ci sono, c'è tutta una pubblicistica, una letteratura enorme su questa cosa perché ci hanno scritto tutti, l'hanno studiata tutti perché è una cosa inaccettabile. Pensate che ci sono dei magistrati, persone serie che hanno fatto la carriera magistratura, quando si sono accorti che in questo paese c'era questa mostruosità indegna, non si può definire indegna, anche dal punto di vista umano, non solo politico o giuridico, hanno messo appunto, hanno detto vabbè, o si riesce ad abolire questa cosa oppure io vado via, non posso fare il carnefice, l'indegno, perché dovrei poi applicare questa cosa che è un crimine contro l'umanità. È veramente il vero crimine contro l'umanità, è la pericolosità sociale. Bene, la Repubblica Democratica Italiana mantiene questo, il più perverso, il più indegno, il più abietto dei concetti fascisti, il peggior concetto fascista, che è quello che appunto dice: io prima ancora che una persona si muove, cioè considero le persone, faccio delle graduatorie sulle persone, decido quella che è più pericolosa, quella che è meno pericolosa in base a dei criteri per nulla oggettivi, del tutto soggettivi, rispetto a una chiesa che si chiama regime fascista, che come i regimi teocratici, no, danno tu sei eretico, tu sei poco credente, tu sei eccetera eccetera, così questo Stato Moloch, lo Stato fascista, dava appunto il bollo di pericoloso socialmente oppure psichicamente, è la stessa cosa, e quindi ti metteva misure di sicurezza pressoché eterne, misure di sicurezza cioè controllato permanentemente, non più cittadino, non più essere umano, non più, cioè ti ha la capacità, ecco, accettare questo elemento centrale del codice penale significa ritenere che non esistono più la compagine umana, ma esistono delle persone che possiamo considerare umane e alle altre che li consideriamo subumani. Quindi è proprio l'aberrazione dell'essere umano, è la cosa più schifosa che l'umanità abbia prodotto, questo concetto. La Repubblica Democratica Italiana contiene, mantiene la pericolosità sociale e le misure di sicurezza in merito alla pericolosità sociale. Considerate che una persona che ha il marchio di pericolosa socialmente, dopo aver fatto un piccolo reato, viene scarcerata con le misure di sicurezza, poi a un certo punto cessano anche quelle. Bene, quella persona rimarrà a vita, per tutta la vita può fare quello che vuole, può diventare un grande artista, un grande poeta, un grande scienziato, non ha importanza, rimarrà per tutta la vita nel mirino delle forze dell'ordine perché è ritenuta pericolosa socialmente. La categoria pericolosa socialmente in genere non viene più cancellata, rimane come un marchio che mettevano agli schiavi anticamente, no? Marchiandoli a fuoco sulla fronte. Infatti è un concetto che viene dalla società schiavistica e quindi questa non solo non è una repubblica democratica, non solo ha preso tutto dal fascismo, ma ha preso la parte peggiore, quella schiavistica. Quindi c'è questa schiavitù fondante, il sistema punitivo italiano, che è basato sul meccanismo della pericolosità sociale. E allora, dicevamo, ecco, e questo è uno degli aspetti per il quale non si può assolutamente parlare di liberazione, non c'è stata nessuna liberazione se non si azzerano completamente i codici fascisti, che ancora appunto marchiano, bollano, non solo perché tengono in carcere 66.000 persone in condizioni, come racconta il documento mandato dalla sezione femminile di Rebibbia, non solo perché sono... i regolamenti penitenziari e sono aberranti, eccetera, ma perché appunto c'è questo meccanismo veramente diabolico, veramente feroce, veramente che bisogna tornare indietro secoli, oppure addirittura andare nelle società teocratiche, quelle più violente, oppure ancora di più nelle società appunto fasciste, per trovare il meccanismo della pericolosità sociale. Eppure in questo paese è rimasto. Ora si tratterebbe di fare una trattazione lunga, ore e ore, però per non annoiarvi, chiaramente spesso ci si è rivolti, alcuni giuristi, avvocati, cittadini e consociati sono rivolti alla Corte Costituzionale per far abolire questa presunzione di pericolosità, perché diventa una presunzione, cioè le persone vengono gli viene attribuita questa presunzione di pericolosità a prescindere da quello che fanno. È legata anche ad UNCOM, perché l'unico elemento che sono riusciti a porre in moderando l'eccessiva, come dire, invasività del concetto, come era ad origine nell'epoca fascista, di pericolosità sociale, che poteva essere attribuita anche se tu non hai mai fatto niente nella vita. Le varie sentenze della Corte Costituzionale hanno corretto e hanno detto che ci deve essere almeno un reato rispetto al quale si può applicare la pericolosità sociale, un reato, non ha importanza che grandezza sia, quindi tu puoi aver fatto anche soltanto un furto, un'infrazione, qualunque cosa, quella diventa il precedente sul quale agganciare il concetto di pericolosità sociale. Quindi c'è un sistema, quindi c'è questa cosiddetta piccola correzione pressoché ininfluente, perché poi si trova il... E questa attenzione, questo concetto, lungi dall'essere... da essere in via, uno dice vabbè, sono passati solo 65 anni, beh, scusate, sono pochi solo, perché all'inizio, già negli anni 60, si diceva vabbè, ma è ancora troppo presto per rifare i codici, è ancora troppo presto, il passaggio, la transizione deve essere lunga, eccetera eccetera. Poi gli anni 70 era ancora troppo presto, ancora siamo nel 2012, ancora troppo presto. No, il problema non è tanto che uno dice siamo troppo presto, quindi ci stiamo avvicinando, cioè uno leva un pezzetto alla volta e stiamo sgretolando i codici fascisti, ma che è il contrario. Questo concetto di pericolosità sociale, invece di andare verso una sua abolizione, azzeramento come sarebbe opportuno, si va verso una sua espansione. Perché? Perché avete visto proprio in questi giorni, e qui ci sarebbe poco, non ci sarebbe oggi, veramente chi ha festeggiato oggi, mi dispiace perché ho visto i prati pieni di gente, tutto giusto, umanamente l'unica giornata di sole, dopo un mese di pioggia la gente va nei prati a prendere un po' di sole. Tutto giù, tutto umano, ma festeggiare il 25 aprile oggi nel 2012, beh, diciamo, è da persone non intelligenti, come minimo. Oggi non dovremmo festeggiare il 25 aprile, oggi dovremmo vestire a lutto, perché si sta muovendo, abbiamo sentito le dichiarazioni del capo della polizia Manganelli, abbiamo sentito alcune dichiarazioni confermate anche sottotono tra le righe dal ministro della giustizia e degli interni, insomma si sta andando dalle ultime sentenze rispetto a alcuni fatti avvenuti in merito alla manifestazione, l'arresto di alcuni manifestanti notav, fatto completamente in violazione di quello che è il senso giuridico, eppure sono passati, sono andati in giudicato, fatti da pubblici ministeri che si dicono provenienti dalla sinistra, comunque sì, da un certo tipo di area, Caselli per non fare nomi. Si sta andando verso un peggioramento di questo impianto fascista del codice penale, peggioramento perché la pericolosità sociale si vuol far diventare il metro di ancora più forte. Praticamente si vorrebbe far sì che questo concetto della pericolosità sociale si estesa a tutti i cittadini, cioè tutti i cittadini verranno vagliati gradualmente, partendo da quelli più, così, che si pensa più pericolosi, verranno vagliati appunto dalle forze di polizia e verranno individuati secondo un loro atteggiamento partecipativo, cioè si dà una compartecipazione a origine, nel senso tu fai parte, frequenti delle persone eccetera, quindi già fai parte potenzialmente di quell'area di persone, no? Infatti stanno già individuando le aree anarchiche, no? I black bloc, si stanno inventando delle categorie, no? Per dare ad essi una crisma di pericolosità più o meno grave. Le tifoserie eccetera, ecco tutto questo, quindi tu a prescindere come esci di casa avrai già un marchio sulla fronte, non visibile però insomma nei sistemi elettronici ben visibile, ben chiaro, di un certo grado di pericolosità secondo le persone che frequenti, gli ambienti che, con cui ti vedi, insomma, no? Collettivizzi. Ebbene, e questo tua compartecipazione ideale, cioè tu frequenti delle persone, se quella aggregato viene ritenuto, perché uno di quegli aggregati, oppure si ritiene che sia in violazione, uno dei suoi componenti sia in violazione di una codice, è chiaro che quella persona diventa tutta quell'area di persone che condividono un'idea, un pensiero, una passione, potrebbe essere appunto rispetto allo sport, qualunque altra cosa, possono essere incriminati. Questo è quello che si sta costruendo. Quindi il mostro giuridico di pericolosità sociale, invece di andare verso una sua abbattimento o degradazione, va verso un suo allargamento. È veramente il completamento del dominio totale dello Stato nei confronti dei cittadini. Quindi è la fine di ogni parvenza, anche formale, di democrazia, e ci sembra proprio abbastanza veramente triste vedere che ci sono delle persone che festeggiano oggi nel 2012 inconsapevolmente, non parliamo delle persone, ho detto che li stanno sui prati a fare il picnic, ma delle persone, ecco, politiche, tutti coloro che hanno una responsabilità politica a qualunque livello, anche tra di noi per esempio, no? Ecco, tra noi, quelli che oggi stanno così, sono andati lì con gagliardetti e cose, andrebbero redarguiti perché stanno fuori di testa. Stiamo cadendo in un baratro molto peggio di quello del fascismo, e quindi non c'è niente da festeggiare. Qui non c'è liberazione, qui c'è antiliberazione in atto che dovremmo sicuramente contrastare.